Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo del pensiero, gli stili di vita che cambiano, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 711 e parleremo dei continui attacchi istituzionali alla vita selvatica, nel nord Italia ma non solo. Parleremo di ragni, di libri, di animali liberi e di imprese sportive compiute in favore della vita animale. La ricetta della settimana e la colonna sonora sono a cura di Gabriele Palloni, rinomato chef non violento e appassionato DJ. Il bollettino della guerra ai selvatici condotta dai poteri istituzionali è sempre più ricco di notizie e c'è il fondato sospetto che si infittisca man mano che si avvicina una scadenza elettorale. L'epicentro del fenomeno è ancora il Trentino, con propaggini nel limitrofo Alto Adige ed eco inquietanti nella sfera politica europea. La nuova impresa di Maurizio Fogatti, presidente della provincia autonoma di Trento, è un'ordinanza di uccisione dell'orsa F-36. Protagonista qualche tempo fa di un falso attacco, cioè un energico invito ad allontanarsi a due cacciatori, in quel momento a loro dire disarmati e intenti a compiere una semplice passeggiata. Fogatti ha da tempo ingaggiato un corpo a corpo con gli orsi e della sua lotta, a colpi di ordinanze e di eliminazione fisica, ha fatto l'asse portante del suo profilo politico e della imminente sfida elettorale. Anche stavolta la scelta di Fogatti ha innescato un procedimento giudiziario, con l'inevitabile ricorso al TAR delle associazioni animaliste, le quali hanno vinto il primo round, visto che il TAR ha sospeso l'ordinanza di Fogatti, senza però avere alcuna garanzia sull'esito finale della contesa. La vita di F-36 è comunque in pericolo. Il TAR ha fra l'altro detto che l'unica cautela ragionevolmente praticabile allo Stato è quella di consentire la cattura di F-36 senza procedere al suo abbattimento, ma provvedendo a rinchiudere l'animale nella struttura del Casteller. Una sorta di via libera all'arresto dell'orsa. E ben sappiamo che la chiusura nel recinto del Casteller per un orso non è detto che sia così preferibile alla pena di morte. L'iter giudiziario comunque continua e una nuova tappa è prevista per il 12 ottobre. D'altra parte, un rapporto ISTRA intitolato La popolazione di orsi del Trentino, analisi demografica a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionale, un rapporto citato anche nell'ordinanza con cui il presidente Maurizio Fogatti ha dato il via libera all'uccisione di F-36, si stabilisce che in Trentino possono essere abbattuti ogni anno al massimo 8 orsi, che è come dire che c'è una possibilità di eliminazione fisica di questi animali, secondo una logica che non tiene in alcuna considerazione la dignità della vita animale e che potremmo definire, più che scientifica, scientista. L'unica preoccupazione di ISPRA è quella di tenere sotto controllo il numero di orsi presenti, facendo calcoli di sostenibilità in un'ottica puramente tecnica e antropocentrica, ben lontana quindi da una considerazione aperta alla vita animale. Nel vicino Alto Adige intanto prosegue il percorso dell'ordinanza firmata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compatscher, che ha autorizzato l'abbattimento di due lupi nella zona di Selva dei Molini, dove nel mese di giugno diversi capi di bestiame sono stati predati in 4 alpeggi designati dalla provincia come aree di protezione dei pascoli. Il provvedimento in questo caso non è mirato a particolari individui, ma a 2 lupi qualsiasi, purché uccisi in un raggio di 10 km quadrati dalle predazioni accertate. La burocrazia provinciale parla di rimozione affidata al corpo forestale provinciale, utilizzando un termine, appunto rimozione, che forse vorrebbe edulcorare la realtà. Si tratta di una duplice condanna a morte che sembra avere i contorni della rappresaglia, più che l'obiettivo di garantire sicurezza agli animali d'allevamento. Poiché ordinanze del genere sono state emesse anche dal presidente Fugatti, la LAV, Lega Antivivisezione, è fortemente preoccupata per quello che sta accadendo nelle due province. Salvare i lupi a rischio e proteggerli, scrive la LAV, è un dovere, perché quanto sta avvenendo in Trentino e in Alto Adige potrebbe essere solo l'inizio di un massacro autorizzato in tutto il nostro paese. Il primo sparo di una battaglia impari contro chi ha la sola colpa di seguire la propria natura. Secondo l'AV non è tollerabile che una parte dello Stato italiano se ne infischi così platealmente di norme e leggi nazionali ed europee. Si tratta di un vero atto di sfida alle nostre istituzioni e al nostro ordinamento democratico che non può essere accettato. Ci opponiamo con forza a questa deriva ammazzalupi dai colori preelettorali o di conservazione di bacini di voti. Continueremo a percorrere le vie legali e istituzionali, come stiamo facendo da mesi con i ricorsi al TAR. La LAV nel suo comunicato fa riferimento alla normativa europea di protezione del lupo, la stessa che ha permesso in questi anni ai lupi di tornare a popolare le montagne italiane, dopo la scomparsa quasi totale avvenuta in passato. Ma il punto è che la stessa Unione Europea potrebbe cedere alle nuove logiche di guerra alla vita selvatica, un succedaneo, o forse la premessa, dell'avversione per tutte le diversità e tutte le autentiche libertà. Danno da pensare in questo senso le recenti affermazioni dell'attuale presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la quale ha affermato in un intervento che la concentrazione delle mute di lupi in alcune regioni europee è divenuta un vero pericolo per il bestiame e potenzialmente anche per l'uomo. Questa dichiarazione è stata definita dalle associazioni animaliste e ambientaliste fuorviante e non basata su dati scientifici, ma introduce una legittimazione politica alle posizioni più oltranziste che l'Italia sta già da tempo sperimentando. Love breaks down. Quando vedi un ragno in casa, che fai? Sorridi e gli lasci vivere la sua vita? Distruggi la sua ragnatela per tenere in ordine la casa, ma lo lasci stare sapendo che ricomincerà da capo? Oppure lo uccidi? Mentre decidi come comportarti con i ragni, forse è bene che ti informiamo che la loro tela è una meraviglia dell'ingegneria, perché riesce addirittura a catturare l'acqua in un modo incredibilmente efficiente. Hai mai visto andare un ragno al fiume per bere? No, dirai, e infatti non ne ha bisogno, perché sa come intrappolare nella sua rete l'acqua che è nell'aria. Lo sostiene un team di ricercatori che per catturare il vapore acqueo presente nell'aria e trasformarlo in acqua allo stato liquido si stanno ispirando proprio al mondo degli animali. I loro risultati sono stati pubblicati su Nature Water. Per il momento gli studiosi canadesi hanno sviluppato spugne o membrane che catturano l'umidità dell'ambiente circostante. Tradizionalmente l'acqua dolce destinata al consumo viene raccolta da fiumi, laghi, acque sotterranee. Ma considerando la siccità a cui stiamo andando incontro, è saggio sviluppare tecnologie che si ispirino al mondo animale, un mondo che è in grado di raccogliere l'acqua in modi molto più fantasiosi dei nostri. Ad esempio, i coleotteri del deserto del Namib non hanno un facile accesso all'acqua, ma la ottengono sporgendosi nel vento per catturare goccioline d'acqua dalla nebbia con la loro armatura, che è strutturata adeguatamente. E così i ricercatori stanno tentando di imitare la struttura superficiale del coleottero con materiali naturali e di origine vegetale. Morale, la lezione degli animali è lì, ci basta osservarli per imparare. Ecco la grande rivoluzione che potrebbe salvarci. Smettere di devastare il loro habitat, di usarli, di sfruttarli, di ucciderli e iniziare ad andare a scuola da loro, a scuola di animalità. You think you're someone special? Zenone Sovilla, giornalista esperto di questioni ambientali, è il nostro corrispondente dall'Arco Dolomitico e più volte ha realizzato servizi sugli orsi, lupi e i delicati equilibri ecologici alpini. Abbiamo chiesto anche a lui, come ad altre voci della nostra trasmissione, dei conigli di lettura, come li abbiamo chiamati, selezioni librarie utili ad accrescere la cultura animalista e antispecista. Sentiamo quali sono le sue proposte. La premessa di questi brevi suggerimenti di lettura è una consapevolezza amara. La consapevolezza che era già tutto scritto, tutto detto, spiegato, talvolta applicato e poi piano piano parzialmente demolito. Mi riferisco ai due grandi nodi dell'umanità, la crisi ecologica da un lato e le diseguaglianze sociali dall'altro, quelle che negano la pari dignità delle persone. Le ricette funzionali per mettere a fuoco la prima, la crisi ecologica, risalgono ormai come minimo alla metà del Novecento. Per la seconda, la questione sociale, una parte dell'umanità aveva articolato proposte istituzionali chiare e ben strutturate, diciamo quantomeno da quasi un paio di secoli, con una forte accelerazione quando nasce e cresce il movimento operaio. Eppure oggi le nostre società cosiddette avanzate arretrano di fronte all'emergenza ambientale, che non è solo il surriscaldamento climatico, ma sono anche i milioni di persone che muoiono o si ammalano a causa dell'inquinamento dell'aria, per esempio, o di altri fenomeni causati dalle attività umane. E arretrano le nostre società, come dimostrato da innumerevoli dati statistici, anche sul piano della distribuzione della ricchezza e sul fronte delle diseguaglianze di reddito. Allora, di fronte a questo scenario, mi sono venute in mente alcune letture giovanili, per dire che i decenni passano, parliamo infatti degli anni Ottanta, nulla cambia in meglio, anzi peggiora, eppure sapevamo tutto. Ricordo per esempio che da ragazzino mi capitò fra le mani un volumetto del Nobel irlandese George Bernard Shaw, un testo teatrale intitolato Il maggiore Barbara. La storia, scritta all'inizio del Novecento, narra della figlia di un fabbricante di armi, una giovane che cerca la redenzione aiutando i poveri nell'esercito della salvezza, finanziato anche dal di lei padre mercante di armi. Lascio a chi vorrà leggere il testo il piacere di questa storia grottesca che mette a nudo paradossi e contraddizioni sociali peraltro persistenti nel nostro presente. Ma torniamo a George Bernard Shaw per concludere. Era socialista, aveva preso anche vari abbagli come l'infatuazione sovietica, ma insomma delle sue idee sul capitalismo avrete compreso abbastanza ed erano chiare e utili anche oggi. Forse non sono altrettanto note le sue idee sull'animalismo. Shaw era vegetariano da 70 anni, quando la morte lo colse a 94 anni, quando cadde dal melo in giardino che stava potando a casa sua. Shaw aveva scritto e parlato spesso del suo vegetarismo. Prevalentemente ne esaltava i benefici per la salute, ma era anche un discorso sul rispetto dell'altro, un rispetto che comincia con il vivere come parte della natura e degli altri animali, non come un'umanità estranea al resto del vivente. Non male questo pensiero per un uomo nato nel 1856. In un certo senso anche Shaw aveva anticipato la crisi ecologica. Chi lo aveva fatto in anni successivi è certamente Ivan Illich, nato nel 1926 e morto nel 2002. Ivan Illich è per me uno dei pensatori più illuminanti del Novecento, per quanto i suoi testi potessero a tratti risultare un po' ostici. Ve ne segnalo uno che scrisse nel 1977 e uscito in Italia nell'81 con il titolo Per una storia dei bisogni. Là dentro era descritto con estrema lucidità il fallimento del modello economico e sociale che persiste oggi, in condizioni di maggiore sofferenza, peraltro. Fallimento per le persone e le comunità. Il nodo, volendo fare del riduzionismo interpretativo, è l'idea e prassi dello sviluppo perpetuo, della crescita continua, senza limiti, affidata a strumenti sempre più complicati e evoluti ai quali viene affidato il destino, il benessere o il presunto benessere dell'umanità. Un po' un aspettando Godot tecnologico, tecnocratico, deresponsabilizzante per i singoli, affidato a un sistema governato dalla legge del mercato che promette ricchezza a tutti e in realtà premia sempre gli stessi pochi manipolando tutti gli altri. Ma infine, per restare sulla questione ecologica ma anche economica, voglio ricordare qui Alex Langer, che resta secondo me a livello italiano il politico più profondo e lungimirante del dopoguerra, per quanto negletto dai più, anche nel Partito dei Verdi, del quale pure fu tra i fondatori e parlamentare. Grazie all'archivio di Radio Radicale e alla Fondazione Alexander Langer è possibile riascoltare vari interventi. Questo politico, pensatore, attivista ecologista, interventi anche degli anni Ottanta in cui Alex Langer metteva a nudo la gravità della crisi ecologica, la necessità di affrontare apertamente e di risolvere il conflitto fra la necessità di una rivoluzione verde e gli interessi dei lavoratori stessi e dei consumatori. Alex Langer ci indica una strada possibile, fatta di azioni pragmatiche, di atti legislativi, di messa a nudo di incompatibilità non più accettabili perché generano malessere, malattia, morte, povertà. Malessere anche immediato, mentre prima tutto era differito nel futuro e quindi più facilmente ignorabile dalle classi dirigenti. Classi dirigenti quasi sempre inadeguate, pigre, conformiste, se non propriamente complici di quel vertice della piramide che per conservare il proprio dominio economico tende a sabotare ogni trasformazione ambientalista e egalitaria. Di Alexander Langer, che nel luglio 1995 decise purtroppo di lasciare questa terra, vi segnalo due volumi. Il viaggiatore leggero, scritti tra il 1961 e il 1995, e l'altro è il più recente, Una buona politica per riparare il mondo, curato dall'esperto di ambiente Marzio Marzorati e dallo storico esponente del movimento non violento Mao Valpiana. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you were finding. Wish I knew. Riccardo Bugari è uno sportivo, un pattinatore di velocità, campione del mondo e olimpionico sul ghiaccio nel 2018 ed è anche un attivista per i diritti degli animali, sostenitore in particolare dell'associazione Essere Animali. Riccardo è impegnato in questi giorni in un'impresa davvero fuori dal comune, percorrere di corsa più di 1000 chilometri, da Santa Maria di Leuca in Puglia a Milano. Sentiamo dalla sua stessa voce il senso di questa impresa. Mi presento, sono Riccardo Bugari, sono un atleta olimpionico nel 2018 e sono un attivista per i diritti degli animali. Quest'anno, insieme ad Essere Animali, che è una delle associazioni più importanti a livello europeo per la difesa dei diritti degli animali, abbiamo deciso di dar vita a questo progetto che si chiama Running Italy for Animals e prevederà di correre un'ultramaratona al giorno in 22 giorni attraversando tutta l'Italia. Inizierò a correre da Santa Maria di Leuca in Puglia per arrivare il 30 settembre a Milano, a Piazza del Duomo. E troverete tutte le informazioni più dettagliate del progetto, come sostenerci nei prossimi giorni, sia sui miei canali che sui canali di Essere Animali. Saranno 4 eventi, uno sarà a Bari, uno sarà a San Benedetto del Tronto, la mia città, l'altro sarà a Bologna e poi ci sarà l'evento finale a Milano. Voglio invitarvi a partecipare, a seguire gli sviluppi del progetto. Voglio invitare tutta la comunità di runners di tutta Italia, se non abitate nelle zone dove arriverò, se avete amici che sono in quella zona e non sanno del progetto, potete informarli del progetto. E io risalirò tutta la costa adriatica, quindi fino ad arrivare penso a Rimini per poi prendere Bologna e arrivare a Milano. E potete unirvi, insomma, potete unirvi in qualsiasi di queste tappe, potete correre insieme a me. Se siete simpatizzanti per gli attivisti per i diritti degli animali o semplicemente avete a cuore la tutela degli animali, non per questo dovete essere per forza vegani, ma semplicemente riconoscete che supportare chi fa qualcosa per i diritti degli animali sia corretto, allora supportateci. Il vostro sostegno sicuramente ci darà modo di portare a termine questa impresa. Da questa sera il mio profilo Strava sarà aperto e potrete vedere gli allenamenti che sto facendo, almeno in quest'ultimo mese, e poi seguire su tutte le tappe anche su Strava. e niente, supportateci il più possibile. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti del progetto. Io ce la sto mettendo tutta, mi sto allenando e credo che sarò pronto, ma sicuramente servirà il vostro supporto per correre 22 ultramaratone in 22 giorni e attraversare tutta l'Italia. Grazie. Durante la sua impresa mangerà come sempre cibo a base vegetale. In una intervista con Claudio Pomo di Essere Animali ha raccontato come diventò vegano. Ho avuto, ha detto, una grandissima sensibilità verso gli animali fin da piccolo. Quando da bambina entravo in macelleria piangevo vedendo i conigli morti e esclamavo poverino. O almeno così mi ha detto sempre mia madre. Poi da grande nel 2015 non so cosa sia scattato dentro la mia mente. Ma a un certo punto, quando vedevo la carne nel mio piatto, provavo disgusto. E una sera, dopo essermi rifiutato di mangiare lo spezzatino, sono salito in camera, ho guardato un video di Margherita Hack, in cui diceva di essere cresciuta senza avere mai mangiato carne, e ho preso la decisione. Sono sceso in cucina, ho guardato i miei, e ho detto loro che non avrei più mangiato carne. Un anno dopo, anche i miei genitori hanno smesso di mangiarla. Una bella storia che può essere di ispirazione per tanti. Ma un motivo di ispirazione possono essere anche le gustose ricette che ogni settimana ci propone Gabriele Palloni, autore fra l'altro del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, pubblicato da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Cosa rende questa ricetta del tofu fritto in tema con i ragni? La ragnatela di pastella che si forma attorno ai croccanti pezzetti di tofu. Dalla tradizione toscana vi racconto come fare il fritto alla ragnatela. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di tofu, 50 g di farina di ceci, 50 g di farina tipo 0, 50 g di amido di mais, salvia e rosmarino, un pizzico di curcuma in polvere, un cucchiaio di olio extravergine, sale e pepe e olio per friggere. Tagliate il tofu a pezzetti e mettetelo in freezer almeno per una notte. Trascorso il tempo necessario, fatelo scongelare. Il tofu acquisirà una consistenza spugnosa, quindi strizzatelo e tamponate con un panno asciutto. A parte preparate una pastella stemperando le due farine con acqua. Dovrete ottenere una pastella liscia e piuttosto liquida. Aggiungete un cucchiaio di olio extravergine, la curcuma, la salvia e il rosmarino tritati molto finemente e aggiustate di sale e pepe, quindi fate riposare una decina di minuti. In una padella fate scaldare l'olio per la frittura. Passate i pezzetti di tofu nell'amido di mais e successivamente immergeteli nella pastella e adagiateli in padella. Ogni pezzo dovrà essere coperto dalla pastella in modo che cuocendo e girandoli otterrete dei filamenti che creeranno la ragnatela. Una volta cotti scolateli e fate asciugare su carta per frittura. Servite ben caldi con un pizzico di sale in superficie. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.